La rosa purpurea di Franco D'Assisti. Eccoci insieme alla Rosa Purpurea, un saluto da Franco D'Assisti, ben ritrovati all'ora di cinema settimanale di Radio 24. Settimana con una mezza dozzina di uscite di nuovi film che arrivano sugli schermi nazionali, con la commedia italiana, quella che sembra ormai pescare abbastanza sul sicuro, con i suoi attori, le sue formule, le sue risate, con il cinema d'autore e soprattutto le prove d'attore che nobili questa settimana, con un piccolo interessante noir che arriva dal Sud America. Insomma, una settimana che non è solo Star Wars in 3D, il ritorno, ma il 3D è diventato un secondo tram da prendere al volo per i grandi capolavori e soprattutto cinema di massa del passato, per potersi poi ridare un vestito nuovo, appunto, per mostrarsi a un pubblico nuovo, ma soprattutto andare sull'usato sicuro, su quello vecchio. Di tutto questo parleremo in questa puntata della Rosa Purpurea, con i nostri collegamenti, con le recensioni in un video. Insomma, state con noi perché la prossima ora ci sarà tanto cinema. Cominciamo subito a riepilogarlo nei titoli di testa. Che la forza indossi gli occhialini. Torna sugli schermi Star Wars Episode 1, stavolta in 3D. L'ennesima occasione, forse non l'ultima, per rivedere il capolavoro di George Lucas che ha cambiato la fantascienza. Andrea e Giulia, 40 anni. Tanto amore, una bella casa, un figlio adorabile, ma niente sesso. Finché nella loro vita non irrompe un vecchio amico di professione pornodivo. Claudia Gerini e Fabio De Luigi, protagonisti di Com'è bello far l'amore, il nuovo film di Fausto Brizzi, con un Filippo Timi in versione comica. Dalla Colombia, un thriller a due facce. L'altra verità. Inizio lento e prevedibile, svolta metà film e una seconda parte piena di emozioni. Il tutto grazie ad un bunker ricavato in una villa di campagna. È un maggiordomo impeccabile nella Dublino dell'Ottocento. Serio, preciso, affabile, discreto. Ma Albert Nobbs nasconde un segreto, messo a repentaglio dall'arrivo di un compagno di stanza. Eccezionale interpretazione di Glenn Close, candidata all'Oscar. Niente impronte sulle lame dei coltelli, per favore. Al Morrison Hotel. Signor Nobbs? Preferisce le rose, i gigli la fanno starnutire. Il servizio è impeccabile. Bellissime rose, Nobbs, signora. E omino gentile. Il personale. E ora, da bere. Albert? È inappuntabile. Ho pensato che abbiamo bisogno di un uomo forte in casa. Non è una cannonata, uno così si approfitta delle ragazze e poi le lascia sole insoddisfatte. Sole forse, insoddisfatte non direi. E le apparenze? Il signor Hubert Page lavora al mattino ed è venuto a chiederci un letto. Con me, signora? Sì, signor Nobbs, con voi. Ingannano. Oddio, siete una donna. Non farete la spia. Come vi chiamate? Albert. Il vero nome? Albert. E allora avete sentito un estratto dal trailer di Albert Nobbs, il film con il quale vogliamo aprire questa nostra puntata della Rosa Purpurea. Un piccolo gioiellino di recitazione da parte di un'attrice che purtroppo negli ultimi anni aveva diradato le sue presenze sul grande schermo, ma che qui riprende un suo vecchio cavallo di battaglia teatrale del passato. Stiamo parlando di Glenn Close, grandissima attrice al servizio di un film nominato a 3 candidature, a 3 statuette, a 3 Oscar, per gli Oscar prossimi venturi. È un film piccolo ma molto interessante, che veleggia dalle parti di quel che resta del giorno. Ricordate il maggiordomo interpretato da Anthony Hopkins, ecco, le atmosfere magari meno sontuose di quelle di James Ivory sono quelle. Siamo nell'Inghilterra, nell'Irlanda del XVIII secolo, siamo a Dublino, in un hotel che va per la maggiore, sempre tenuto a puntino anche grazie a uno stuolo di camerieri, di personale di servizio di grande livello. Albert Nobbs è appunto il migliore di questi dipendenti, di questi camerieri maggiordomi. Una vita totalmente dedicata alla sua professione, un perfezionismo che ne fa una persona davvero sorprendente all'interno di questa struttura, ma tutto questo cela una serie di segreti. Il primo è per esempio che Albert Nobbs risparmia tutto quello che può, annota tutti i suoi risparmi, tutte le sue monetine risparmiate su un piccolo taccuino e con i soldi li mette sotto il pavimento di legno. Perché? Perché ha un sogno, quello di aprire un giorno una sua attività commerciale. E poi c'è un altro grande segreto, il grande segreto, ma ve lo possiamo svelare perché nel film arriva dopo pochissimi minuti e quindi la cosa è abbastanza nota, è che Albert Nobbs è una donna. È una donna che vive sotto mentite spoglie, che fascia la sua sinuosità corporale strettamente ogni mattina, che indossa l'abito da maggiordomo e si fa passare con i capelli corti proprio per Albert Nobbs, per un maggiordomo maschio. Tutto questo forse anche perché c'è dietro una storia di una omosessualità che non può essere denunciata, tutto questo perché forse una donna maggiordomo non sarebbe stata accettata in quella struttura, forse doveva rimanere in cucina o a rifare le stanze. Però Albert Nobbs procede in questo modo e nessuno praticamente se ne accorge. Ma un giorno in questo albergo arriva una persona che può svelare questo segreto, e proprio nel momento più critico, e questo non ve lo diciamo invece, proprio nel momento più critico, nel momento in cui tutto sembra crollare attorno ad Albert Nobbs, capisce che questa persona gli darà una sponda, gli darà amicizia e gli permetterà di vedere il mondo e le cose in un altro modo, perché proprio nel frattempo Albert Nobbs si innamora di una bellissima ragazza che lavora sempre in quella struttura e chiaramente sarà un amore che non potrà mai essere corrisposto fino in fondo. Guardate come siete sopravvissuta per tutti questi anni, lavorando sodo e risparmiando. Li tenete sotto il materasso, vero signor Nobbs? Stavo pensando che mi piacerebbe comprare un negozietto. Potrebbe servire una donna al bancone. Pensate di prendere moglie? Chi è la fortunata? Mi chiedevo se verreste a fare una passeggiata. Mi state invitando a passeggio con voi? Sì, perché no? Quello odora di soldi. Desiderate entrare? Sì, certo. Come mai non siete vestito elegante? Sono un cameriere. E io un medico. Siamo entrambi travestiti da noi stessi. È un uomo strano. Almeno ha dei bei modi. Ma i suoi bei modi non ti porteranno in America. Il nostro negozio avrà grande successo e il nostro matrimonio sarà una meraviglia. Che genere di uomo chiederebbe a una ragazza di sposarlo senza averla mai neppure baciata? E allora, i sogni, ma anche le angosce di una persona che non riesce chiaramente a mostrare la sua vera faccia. Dicevamo, nel 1982 Glenn Close interpretò questo ruolo a teatro e per 30 anni ha tentato di portarlo sul grande schermo, con molti fallimenti perché non era un soggetto facile da accettare per un produttore. Adesso c'è riuscita, grazie anche al lavoro del suo amico e regista fidato Rodrigo Garcia, un film che... diciamo denuncia forse qualche lungaggine di troppo nella seconda parte. La prima, quella dello svelamento dell'essere Albert Nobbs, è molto molto riuscita. Un film che forse denuncia anche la sua origine teatrale, non tanto per la mancanza di capacità di messa in scena cinematografica, anzi gli esterni di questa Dublino ottocentesca sono anche molto ben riusciti, ma perché la cosa migliore del film rimane l'interpretazione sontuosa di Glenn Close en travesti, potremmo dire, appunto, no? in questo ruolo di maschio, un ruolo che esalta le sue capacità attoriali, e quindi quando proprio l'impianto rimane quello della messa in scena più teatrale, ci sono i momenti migliori di questa pellicola. Albert Nobbs nei cinema italiani, un bel film per un weekend, diciamo, diverso cinematograficamente. Sono quelle assolutamente riconoscibili, una sorta di marchio di fabbrica di una delle saghe più amate della storia del cinema e non solo di fantascienza. Stiamo parlando ovviamente di Star Wars, perché Star Wars torna in sala per la 15ª volta. Le hanno provate tutte, sequel, prequel, remake, c'era stato di tutto, il cartone animato, poi l'edizione dei 20 anni, ogni motivo, ogni momento è quello buono, quello giusto e noi siamo sinceramente felici per tornare a far vedere sul grande schermo, nella sua assoluta, diciamo, dimensione, necessaria dimensione originale, il film di George Lucas. Ma questa volta arriva il 3D. E allora, volevi perdere l'occasione di fare Star Wars in 3D? No, troviamo un altro pubblico, portiamo a casa ancora un po' di soldi. Star Wars Episode 1, quindi stiamo parlando non del primissimo, ma del primo della trilogia dei prequel di George Lucas, in 3D. E allora questa è un'occasione chiaramente che dovrebbe sfruttare il pubblico che ama Star Wars già di suo e quello che magari non l'ha mai visto o può avere questa occasione di vederlo sul grande schermo. Noi siamo in collegamento con Boris Sollazzo, fra poco gli chiederemo se ha dormito di notte in questi anni per l'assenza di Star Wars in 3D. Prima però sentiamo una breve clip. Ti riferisci alla profezia di colui che porterà equilibrio nella forza? L'emozione. Pensi che sia questo bambino? La forza è singolarmente possente in lui. L'avventura. Finalmente potremo rivelarci ai Jedi. Finalmente potremo vendicarci. Povero me! Wow! Aspetta un attimo! Fuoco! Terminateli subito tutti quanti. E allora, Guerre Stellari Episode 1 in 3D. Allora, Boris Sollazzo, ciao e ben ritrovato qui alla Rosa Purpurea. Boris, abbiamo detto ironicamente prima, insomma, ci hai dormito di notte perché non c'era Star Wars in 3D? Onestamente sì, anche perché come insomma gira molto sul web una vignetta di un ragazzo che si mette davanti a un televisore con un DVD e chiede, l'amico gli chiede: ma perché non esci? Dice: devo vedere assolutamente l'ultima versione di Lucas prima che l'ultima versione di Guerre Stellari di Lucas prima che Lucas la cambi, perché ultimamente soprattutto negli ultimi anni lui ha fatto di tutto, scene tagliate, scene rimesse, scene infilate ovunque di Guerre Stellari. Questo 3D forse è una delle versioni, mi perdoni il maestro perché io con Guerre Stellari ci sono cresciuto, più inutili, perché la grandezza di Lucas stava proprio nel fare fantascienza con effetti speciali artigianali. Usare il 3D è un po' una snaturazione, come già era successo col digitale, proprio con la minaccia fantasma, col capitolo 1. Quindi è chiaro che poi se lo fai questo sforzo del gonfiaggio in 3D, dell'audio più potente, con il capitolo probabilmente più brutto della saga, certo questo non ti aiuta, quindi devo dire che per quanto mi riguarda dormo ancora più sereno senza rivederlo, la minaccia fantasma in 3D. Ovviamente come sempre Lucas come dire, che ha inventato anche uno dei sistemi che governano a livello audio il cinema mondiale, il THX, come dire, ha fatto le cose per bene tecnicamente, cioè questo è un buon 3D in termini tecnici, l'audio è sicuramente molto potenziato, per carità, tutte finezze che probabilmente per chi l'ha visto già 5-6 volte e lo va a rivedere dice: ah, guarda, stavolta è così, si può fare un suo paragone. Può servire, Boris, invece al neofita, cioè al ragazzino di 15 anni che ne ha sentito parlare dal papà e che lo vede per la prima volta, oppure vedere una prima volta una cosa così diversa da quella che era appunto la poetica, l'etica quasi del film originale, porta su una strada che non è quella giusta? Allora, guarda, credo che non sia deviante, se vogliamo parlare insomma di Star Wars quasi come una religione, nel senso che, ripeto, la seconda trilogia ha poco a che fare con la prima, proprio anche cinematograficamente parlando, e quindi diciamo che probabilmente il 3D fa parte anche della natura di questa trilogia, non c'era, o comunque non era così sviluppato quando è partita e quindi lui non l'ha usata, ma probabilmente l'avrebbe usata se avesse avuto la possibilità. Forse al neofita può servire, cioè se e io non ne sono sicuro, c'è un pubblico che effettivamente ormai non solo è abituato al 3D, ma lo vuole, lo preferisce, allora forse Star Wars in 3D può essere il modo migliore per un neofita di entrare all'interno di questo universo. Non lo è, perché vedere questo come primo capitolo in qualche modo è un po' una punizione, nel senso che ce ne sono almeno altri 5 su 5 che sono sicuramente migliori. Beh, non male come media. Allora Boris, resta con noi perché fra poco dobbiamo parlare di un film molto meno magniloquente, forse neanche bellissimo, come Tre uomini e una pecora. Ci dirai tu, prima però giochiamo, è arrivato il momento di giocare, come sempre. Ah, la settimana scorsa, dopo ne parleremo al momento dello svelamento, non ha indovinato nessuno, è la prima volta che accade nella storia del DVD game della Rosa Purpurea, o il film era troppo difficile o chi lo sa. Beh, è successo, insomma, è una cosa curiosa che è successa, e quindi questa settimana abbiamo deciso di, poi dopo sveleremo comunque di che film si trattava e lo recensiremo come da dovere, ma abbiamo deciso di mettere come premio di consolazione di questa settimana il premio della settimana scorsa, che è andato così invenduto, diciamo, a livello di gioco. Quindi insomma, maggiore attenzione alla traccia di oggi, però dovete indovinare questo film. Sentiamo. Hai un'aria orribile. Era semplicemente spaventosa. Non t'ho mai visto peggio di così. Ah, coraggio Gianni, il vecchio dottor Jones non ha mai deluso un papà. Allora, avete sentito voci d'epoca, sembra un po' essere qualcosa di... Vabbè, non ve lo dico, dopo, magari vi aiuto dopo. Adesso no, la Rosa Purpurea @radio24.it, di che film si tratta, per provare a vincere l'edizione in Blu-ray di questo film, e mi raccomando, vostro indirizzo privato, come sempre, perché preferenzialmente agevola le opportunità, le operazioni di spedizione. Più tardi ci saranno altre due tracce. Dicevamo allora, un altro film, andiamo in ambito di commedia, parliamo di Tre uomini e una pecora, questo è il titolo del nuovo film di Stephen Elliott, con un'arietta che spira un po' da Notte da Leoni. Ormai sembra che quella commedia, ma l'avevamo detto già all'epoca, avrebbe cambiato un po' i canoni della nuova commedia, così molto molto sessuale, molto ridanciana, anche un po' politically correct. Questo format sembra essersi appropriato anche del nuovo film, di questa commedia un po' tragicomica. Sentiamone una clip. Sputer Rospo, che vuoi che ti dica? Mi sono innamorato. Si chiama Mia, è australiana. Ci siamo conosciuti a Tuvalu, un'isoletta nel Pacifico. Ed è la ragazza più bella, divertente, intelligente. Le persone normali a questo punto dicono congratulazioni. Congratulazioni? Mi hai fatto invecchiare di 10 anni, cazzo. Le storielle estive dovrebbero finire all'aeroporto, non all'altare. Non lo stare a sentire, David, è stupendo. Noi il nostro appoggio te lo diamo, basta che ci dici dov'è la festa. È a casa dei genitori di Mia, in Australia. Cos'è, uno scherzo del cazzo? Non posso venirci in Australia, è a 1000 anni luce da qui e lo sai che soffro l'aereo. E io scemo che speravo nel vostro sostegno. Se non venite mi ritroverò da solo con un mucchio di merdosi australiani. Siete tutto quello che ho. Scusami, siamo amici da 20 anni, quando mai ti abbiamo tradito? Quindi andrete a vivere in un bilocale nell'Affershire? Non ci pensare neanche, ti vuoi trasferire in Australia? Non è ancora deciso, vediamo le cose come vanno. Boris, Tre uomini e una pecora, dallo staff di Un matrimonio all'inglese, però come dicevo mi sembra un film, a guardare almeno il trailer, adesso ce lo racconti tu che l'hai visto, dove tutto sommato i criteri sembrano essere quelli di Notte da Leoni. Sì, assolutamente sì, devo dire che sono un po' sconvolto dal fatto che il regista di Priscilla e La regina del deserto sia diventato un regista matrimoniale, no? Prima il matrimonio snob, classista di Matrimonio all'inglese, e adesso appunto questa Notte da Leoni, questa notte mattina da Leoni. Lo schema è davvero identico, incredibilmente identico, ovviamente declinato alla Elliott, e quindi insomma con tutta una serie di intuizioni e di divertimenti di tutti i suoi personaggi, in alcuni casi molto meno cinici di Todd Phillips, in altri anche più perfidi, ma in una maniera diversa, però lo schema è lo stesso, sono 4 amici, ci sono momenti di assoluta violenza anche verso animali, anche se ci assicurano che non è stato usato una pecora vera nella scena, diciamo, clou. Elliott secondo me saprebbe fare molto meglio di così. Detto questo, è abbastanza bravo per farci ridere parecchio e per regalarci dei momenti molto divertenti, e soprattutto un Olivia Newton-John che chi la ricordava nel momento del successo certo dovrà rivedere molti canoni e molte dei suoi pregiudizi sulla ragazza, perché qui, diciamo, in un'età più avanzata davvero si scatena ed è una delle mattatrici della seconda parte del film. E direi che, usando una frase trita e ritrita in questi casi, veramente Olivia Newton-John a un certo punto vale il prezzo del film comunque. E allora Olivia Newton-John, quindi bentornata e ben ritrovata in commedia Tre uomini e una pecora nelle sale italiane. Grazie Boris, appuntamento la prossima settimana. Grazie a te Franco, arrivederci la prossima settimana. A proposito di classifica, andiamo a dare un'occhiata a quello che è successo il weekend scorso, cioè è successo niente di nuovo, continua a incassare valanghe di soldi Benvenuti al Nord, che è per la terza o quarta settimana, se non ricordo male, consecutiva in testa alla graduatoria, ma con un incasso nel weekend da primo weekend, cioè 2 milioni e 3 nel weekend scorso, per il film di Luca Miniero con Claudio Bisio e Siani, 25 milioni di euro già raggiunti complessivamente, si veleggia verso i 30 finali che sono praticamente l'incasso di quello precedente, quindi operazione super riuscita per i produttori. Secondo posto, e sono molto felice di questo, per un bel film, abbiamo parlato diffusamente settimana scorsa, come Ugo Cabré di Martin Scorsese, che è un magic fantasy che va bene per i bambini, certo, per i ragazzini, ma anche assolutamente per chi ama il cinema, anche con una vena di cinefilia notevole. E poi terzo posto, partenza perché era già in sala, ma insomma così per Mission Impossible, il nuovo capitolo sembra non incontrare un consenso particolare. Parte maluccio il Millennium di David Fincher, 905.000 euro, e invece tiene piuttosto bene All Cops Are Bastard di Stefano Soli, ma quinto posto e oltre 2 milioni di euro incassati dalla sua uscita. Questo per dire che questa è la graduatoria, questa è la situazione che troverà il film di cui vogliamo parlarvi adesso, Come bello far l'amore, commedia italiana con un cast diciamo adatto a questo tipo di situazioni, capitanato da Fabio De Luigi e Claudia Gerini, ma ci sono anche Filippo Timi e Giorgia Wurt. Lo ha visto per noi Barbara Righini. Qual è il posto più strano dove avete fatto l'amore? Nel lettone dei miei. E tu Giulia? Nella sala macchine di un traghetto, in una cella frigorifera. Ah, allo stadio durante il concerto di Vasco. Amore, ma sto scherzando. Scherzando. Ti pare che vada a vedere Vasco? Da Trieste in giù, com'è bello far l'amore, io sono pronta e tu. Non hanno una grande fantasia Giulia e Andrea, o almeno non ce l'ha Andrea. Se avere rapporti sessuali frequenti e di buona qualità è il cemento che tiene insieme ogni rapporto, Giulia e Andrea sono su una brutta china. È questo il punto di partenza per Fausto Brizzi, che come sempre arriva nelle sale in occasione di San Valentino. Con Come bello far l'amore, il regista di Notte prima degli esami racconta la crisi di una coppia di quarantenni. Nella parte di Andrea c'è Fabio De Luigi al suo quarto film con il regista romano. Per Giulia, Brizzi ha scelto Claudia Gerini. E a dare una mano ai piccioncini in difficoltà arriva Filippo Timi nel ruolo di Max, un porno attore amico d'infanzia di Giulia. Questo è l'afrodisiaco naturale più potente al mondo. Ne basta una spruzzatina dietro al collo e alla donna che lo annusa va in circolo una scarica potentissima di dopamina. Sono feromoni di orangotango maschio. Capito, non è che puzzo di scimmia però. Ma no, figurati. Una buona madre, una moglie premurosa e attenta, a Giulia non sfugge che il suo matrimonio è a rischio fallimento e molto volentieri si affida a Max. Scopre così il suo lato più piccante fra corsetti e perizoma. Una autoironica Claudia Gerini riesce a non essere mai volgare. Io, nonostante insomma rimango un perizoma, ci sono dei momenti abbastanza, potevano essere pericolosi, però io non mi sento una persona volgare e quindi con sicurezza e tranquillità affronto insomma le varie prove che mi chiedono i registi. Garbato, come sempre, ben confezionato, Brizzi sa quali corde toccare per attirare al cinema più pubblico possibile. Ma Come bello far l'amore ha il pregio di strappare più di una risata, soprattutto grazie alla naturale goffaggine di Fabio De Luigi. Certo, l'utilizzo del 3D è più un vezzo che una necessità. Brizzi ha il coraggio di ammettere quello che tutti sanno, ma che nessuno vuole dire. I problemi sotto le lenzuola prima o poi arrivano per tutti. Certo, se l'intento era quello di fare un film anticonvenzionale, non è questo il caso. La pellicola è per famiglie, una commedia in fondo romantica, nonostante l'argomento. E Filippo Timi sa sfruttare l'occasione di un ruolo lontano da quelli fino ad ora da lui interpretati. non più un film corale per Brizzi. Per la prima volta l'autore si concentra su un'unica storia. Diciamo, avevo fatto 5 film corali uno di fila all'altro, praticamente avevo esaurito tutti gli attori italiani, mi sono ripreso alcuni dei miei attori feticcio, insomma Fabio De Luigi in testa, e mi sono divertito a raccontare una storia sola, perché il messaggio che volevo mandare era uno e mi serviva una storia unica. E non era scontato scegliere Timi per il ruolo di Max. Filippo Timi è una mia passione, sapevo che lui era un comico nato e che non era semplicemente mai stato usato, a teatro fa spettacoli comici, e la sua interpretazione di Max il porno divo a me ha divertito molto, e lui non è ancora uscito dal personaggio. E allora Barbara Righini ci ha raccontato con le voci dei protagonisti questo film Come bello far l'amore nelle sale italiane da questo fine settimana. Adesso giochiamo insieme, seconda traccia del DVD Game. Oh, che scarpina amorosa e quella cuffietta. Semplicemente deliziosa. Avrà tutto questo cubo. Lisa, cara, non ti ho mai vista bella come oggi. Sei semplicemente radiosa. Radiosa. È proprio quello che dicevo ieri al mio bimbo. Allora, avete capito di che film si tratta, insomma, questo mondo animato, diciamo così, Blu-ray di questo film che vi aspetta, La Rosa Purpurea, @radio24.it, titolo del film e vostro indirizzo per provare a vincere appunto il Blu-ray di questo film. Più tardi ci sarà l'ultima possibilità. Parliamo adesso di un film che definirei senza tema di smentita schizofrenico, perché è un film che si divide proprio in due parti, anche proprio come riuscita, come presa che ha rispetto al pubblico. Una prima parte che sembra girata da una equipe di dilettanti, regia approssimativa, recitazione probabilmente anche peggio, e una seconda parte che ti acchiappa, ti tiene lì fino alla fine del film. Stranezze che però hanno convinto la 20th Century Fox a investire su questa pellicola, coproduzione spagnola-colombiana, pensate un po', e tutto il film si svolge però in Colombia. Si tratta di La Verità Nascosta, questo è il film di Andrés Baiz con Martina García, Kim Gutiérrez e Clara Lago. Storia, velocemente, un direttore d'orchestra va dalla Spagna a Bogotà a dirigere l'orchestra di Bogotà, l'orchestra sinfonica di Bogotà. Prende una villa in campagna straordinaria che però sembra celare qualche mistero. All'inizio capiamo la polizia che arriva, perché questo uomo ha perso, ma nel senso che è scomparsa, a un certo punto non se ne trovano più le tracce, la sua compagna Fabiana. Allora cosa succede? La polizia sembra avere qualche sospetto su di lui, Fabiana non si trova, il tempo passa, il maestro si fa un'altra vita e diciamo flirta con Belen, piccola e giovane, ma anche molto arrivista, cameriera di un locale di Bogotà. Questa è la prima parte del film, vi dicevamo, anche imbarazzante, volevo andarmene a un certo punto perché veramente il film non sembrava decollare mai. E a un certo punto cosa succede? Succede che si entra in un bunker, e questo è lo snodo narrativo che divide davvero in due, taglia in due questo film. Ecco un optional di questo appartamento che non era scritto nell'annuncio. C'è abbastanza ossigeno, cibo e bevande per sopravvivere per mesi. Lo specchio è blindato e completamente insonorizzato. Dal di fuori è impossibile sentire o vedere ciò che accade dentro. E questo allora è davvero, dicevamo, lo snodo. Un bunker all'interno di questa villa, e da quel momento in poi praticamente rivediamo tutta la prima parte del film, la rivediamo con occhi diversi, da un punto di angolazione diversa e davvero partecipando in maniera emotivamente molto diversa alle vicende della protagonista. E non voglio dirvi di più perché non è un horror assolutamente, è un thriller neanche tanto psicologico, un thriller e basta, un thriller realistico potremmo dire in questo senso, dove il congegno nella seconda parte giustifica sicuramente sicuramente un approccio troppo lineare della prima, non giustifica certo determinati eccessi di recitazione che potevano essere tranquillamente levigati, diciamo così, ma l'idea di fondo del film è davvero molto interessante, molto divertente, questo comunicare da una parte all'altra di una parete spessa 10 centimetri come se si fosse in due mondi totalmente diversi che devono affidare la propria comunicazione e forse anche il proprio desiderio di salvezza alle onde dell'acqua del lavandino, ai rumori nei tubi, come se ci fossero presenze ultraterrene che invece sono totalmente terrene. Andate a vederlo voi, scoprite voi il perché qualcuno sta di qua e qualcuno sta di là, quanto può costare una prova di fedeltà, per esempio, perché davvero ne può valere la pena, e uscirete con la bocca dolce nonostante l'inizio piuttosto amaro. La verità nascosta di Andres Bais nei cinema italiani. Ed eccoci qua, la quarta e ultima parte della Rosa Purpurea di questa settimana. Voglio approfittare, peraltro, per ricordarvi che settimana prossima saremo in onda con una doppia puntata, perché come tutta Radio 24 saremo alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo, qui in Fiera Ro, per essere appunto partner di questa grandissimo evento che tocca non solo l'aspetto appunto del turismo d'affari, ma anche quello della gente che va a vedere dove andare in vacanza, sostanzialmente, come anche lo scorso anno saremo lì, trasmetteremo da lì la domenica, e quindi sabato puntata normale qui da Radio 24 con le attualità cinematografiche, domenica 19 dalla BIT alle 15 in diretta, puntata interamente dedicata a road movie, anche per così dare un omaggio anche al senso del viaggio che è quello della BIT. Chiusa parentesi, parliamo di film da vedere in casa, lo facciamo come sempre in apertura di blocco con gli amici del settimanale Film TV, che hanno dato un'occhiata per noi ai palinsesti televisivi in chiaro e gratuiti della prossima settimana. Siamo in collegamento con Giulio San Giorgio, che saluto. Ciao Giulio. Ciao Franco, bentornati con le segnalazioni di Film TV. Oggi abbiamo scelto insieme due film che mi stanno particolarmente a cuore, due film del cinema diciamo recente, comunque degli ultimi 10 anni, così, che però sono forse due degli episodi più interessanti. Da una parte abbiamo parlato poco fa proprio di Millennium di David Fincher, e guardo a caso in televisione passa Zodiac di David Fincher. Giulio. Esattamente, Zodiac su Canale 5 alle 21:10 di martedì. Siamo alla fine degli anni 60, un serial killer colpisce San Francisco, manda una serie di lettere ai quotidiani e sfida gli investigatori attraverso messaggi cifrati. Un cronista, un ispettore e un disegnatore di vignette si mettono sulle sue tracce. Si tratta del più celebre caso irrisolto della storia americana. David Fincher, che appunto ora è nelle sale con il bellissimo Millennium a Uomini che uccidono le donne, che odiano le donne, gira un film che è l'esatto negativo di Seven, antispettacolare, minuzioso, girato e recitato con grande classe e aderenza alla ricostruzione molto particolareggiata della realtà. Come al solito l'ipertecnologico Fincher, che è una sorta di scienziato delle immagini, mette in scena paradossalmente e sistematicamente la crisi della ragione, la sconfitta del metodo e della razionalità. E allora questo è l'appuntamento con Zodiac, martedì 14 febbraio, Canale 5, ore 21:10, film assolutamente da non perdere, così come è da non perdere o da rivedere, se lo avete anche già visto, l'appuntamento di venerdì 18 febbraio su Rai 3, sempre alle 21:05, in prima serata con The Wrestler. Giulio. Esattamente, la storia di Randy The Ram Robinson, un wrestler che comunque con un passato da campione sta in declino, e combatte per pochi soldi in match che sono per lui fisicamente devastanti. Un malore lo costringe a ritirarsi dal ring, a fronteggiare i tanti conti in sospeso della sua vita e a partire dalla figlia adolescente che non vede da molti anni. Leone d'Oro alla Mostra del 2008 è la parabola di un lottatore della sua Fat City, uno spicchio di mondo dove vivono solo perdenti e derelitti, alla quale c'è con commovente passione Mickey Rourke, che è assolutamente grandissimo, sfatto, un vero freak. Io voglio anche ricordare lo straordinario cast, la giovane Eva Rachel Wood, figlia di Mickey Rourke nel film, ma soprattutto Marisa Tomei, di cui è impossibile non innamorarsi in questo The Wrestler. Ricordo l'appuntamento, allora venerdì 18 febbraio, Rai 3, 21:05, in prima serata The Wrestler di Darren Aronofsky. Grazie a Giulio San Giorgio e agli amici di Film TV. Grazie a te Franco e ai radioascoltatori, e alla prossima settimana con le nostre segnalazioni. Ebbene, allora, con Film TV questa settimana abbiamo beccato veramente due film imperdibili in televisione. Siamo alla terza e conclusiva traccia del film misterioso di oggi. Qui invece è casa Dominguez, dove il piccolo Pedro, sempre io, capisci? e di casa il martedì. Di casa il martedì? Caramba, esso è il dia in cui fanno la paella alla valenciana. E allora, paella alla valenciana, se avete fame, ma soprattutto se avete indovinato, scriveteci il titolo di questo film, La Rosa Purpurea, @radio24.it, con il vostro indirizzo, di che film si tratta, per provare a vincere il Blu-ray di questo film. 7 giorni fa, sentiamo. Tu la vedi in una maniera e io in un'altra, chiaro? No, tu hai fede, ma 5 Ave Maria non ti aiutano a risolvere il problema. Tutte queste cazzate religiose stancano solo il cervello e non pensi più con la tua testa. E allora, abbiamo detto prima, per la prima volta nella storia del nostro game nessuno ha indovinato. Adesso io mi sono posto un problema, ho detto: ma è possibile che il titolo e il film fosse così difficile? Non mi sembrava così difficile, ma è vero che è passato tanto tempo per uno dei film che hanno consacrato Ken Loach nell'universo internazionale. Stiamo parlando di Piovono Pietre. Era questo il film della scorsa settimana, il game della scorsa settimana. Come ho detto, le copie rimangono a disposizione, diventeranno premio per i secondi arrivati del quiz di questa settimana, ma noi la recensione ovviamente la facciamo lo stesso, perché il film la merita tutta, con il nostro Claudio Poffi. Ciao Claudio. Ciao Franco, saluto gli amici in ascolto. Sì, allora, questa realizzazione da parte di Minerva del DVD, è disponibile solo il DVD, comunque di ottimo livello, per il film di Ken Loach del 93, con il formato dell'immagine originale rispetto a quello cinematografico. C'è questa doppia traccia Dolby Digital, 2 canali, italiano e inglese, sono entrambi di ottima qualità. Come extra c'è un'introduzione al film da parte del critico Mario Sesti, ma attenzione, perché all'interno della confezione presenta un libretto con la presentazione del film e 2 stralci di conversazione con il regista. È davvero un film molto interessante, tra l'altro è proprio uno dei film simbolo di quell'approccio alla working class tipico di un lottatore, di un grande militante come Ken Loach, ovviamente oltre che un grande cineasta. Andiamo avanti con le recensioni di questa settimana, allora, con la prima clip, un film della stagione ancora in corso, un film passato alla Mostra del Cinema di Venezia dello scorso mese di settembre. Stiamo parlando di Contagion. Anche se avessimo un vaccino adesso, dovremmo fare esperimenti sugli esseri umani, servirebbero settimane. E ottenere il nulla osta e l'approvazione, organizzare produzione e distribuzione, ci vorrebbero mesi. E poi addestrare i sopravvissuti a fare le inoculazioni, altri mesi, altri morti. Beh, la sicurezza nazionale vuole sapere se si può mettere un vaccino nella rete idrica, come per il fluoruro, per curare tutti insieme. Tragico il rientro in America di una donna da Hong Kong dopo un viaggio d'affari, che muore per quella che sembra essere una banale influenza, ma che si rivelerà poi essere una malattia sconosciuta. Nella ricerca di una possibile cura si indaga sui primi decessi nello stesso momento in cui una dottoressa e una ricercatrice viene inviata in Cina alla ricerca del paziente zero. Colpita la popolazione mondiale, i ricercatori lottano contro il tempo per limitare gli effetti del contagio, mentre circolano notizie contraddittorie e aumenta a dismisura la psicosi collettiva e i violenti disordini sociali. Dal regista Steven Soderbergh, un thriller efficace, un'altra storia con lo stesso stile corale del passato, la presenza di tanti attori di notevole caratura, Matt Damon, Gwyneth Paltrow, Kate Winslet, giusto per citarne alcuni. Da Warner Home Video, l'uscita in DVD, c'è soprattutto il Blu-ray, noi privilegiamo sicuramente quest'ultimo, di eccellente resa video, stessa traccia audio Dolby Digital del DVD per l'italiano, sicuramente superiore all'originale inglese DTS ad alta risoluzione. Come extra segnaliamo alcuni approfondimenti sul film con focus sulla vera ricerca dei virus mortali. E ora un personaggio assolutamente senza tempo della letteratura, ma anche del cinema, come quello di Jane Eyre. La vita scorre tranquilla in questa dimora così isolata. Destino immobile per una giovane. Vorrei che una donna avesse una vita d'azione come un uomo. Mi agita fino a star male sapere che l'orizzonte sarà sempre il nostro confine. A volte bramo una vista così potente da poterlo oltrepassare. Orfana educata in un rigido collegio inglese, Jane Eyre ne esce dopo anni per iniziare una vita in un'isolata ricca tenuta nello Yorkshire. Assunta come istitutrice, tra gli impegni e il tempo che scorre lento, Jane conosce Edward, il padrone di casa. Resti ad amarsi, i due cederanno infine i sentimenti al matrimonio, Però il dolore di un rapporto inquieto e instabile spingerà Jane a allontanarsi dal tetto coniugale per un lungo e silenzioso periodo. Dal classico della letteratura ottocentesca di Charlotte Bronte, ecco una nuova appassionata versione di Jane Eyre, ennesima riproposizione del romanzo dopo varie proposte TV e anche quella al cinema, tra cui naturalmente più importante quella del maestro Zeffirelli del 95. Il Blu-ray è di Videa, di eccellente resa, c'è una doppia traccia di TS ad alta risoluzione italiano e inglese. Tra gli extra segnalo il commento del regista, molto interessante, ma ci sono anche scene omesse dal montaggio, un approfondimento sulla colonna sonora. E allora, grazie a Claudio Pofi per averci raccontato anche questa settimana tutte le novità in un video. Appuntamento la prossima settimana, Claudio. Ciao, a presto. E noi abbiamo chiuso la nostra trasmissione, non ci resta che darvi il doppio appuntamento a settimana prossima. Allora sabato, puntata tradizionale, diciamo così, qui alle 18, domenica puntata speciale dedicata al road movie in diretta dalla Beat di Milano. Grazie a Giorgio De Luca in redazione, a Peter Bescapè in regia, un saluto da Franco D'Assisti.